Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci caro Oscar, sono le 8:18. 8:18 di questo venerdì 29 di luglio, in diretta fine 9:30. Esatto, l'ultima puntata di Attenti a noi due. Sì, proprio poi, l'ultimo. L'ultima. Dai, che poi dopo riprendiamo il 5 settembre. No, confido. Parla per te, io il contratto non ce l'ho, quindi non ci sono il 5 settembre. E cari ascoltatori, allora i santi del giorno, quelli che noi precari dobbiamo pregare ognuno. San precario, no? Non c'è San precario, ma a volte bisogna riscoprirlo. Oggi è San Marta di Betania insieme a San Lazzaro. Cioè erano, Marta di Betania era la sorella di Lazzaro, se ricordate, quello alzati e cammina. Mm-hmm. E nel Vangelo viene citata solo perché lei, a differenza della sorella che era estatica di fronte a Cristo quando parlava, lei faccendava per casa, perché spesso Gesù andava lì. E invece poi alla fine viene molto premiata da Gesù, e quindi per questo è la silente, per così dire, patrona delle casalinghe, delle colf, degli ossi. Marta di Betania mi è sempre stata simpatica per questo. Non voglio dire, care ascoltatrici, che ho il mito della casalinga muta, sto dicendo che poi nei Vangeli viene premiata, tutto qua. E tanti altri santi: Callinico, Berio, Felice, Lupo, pensate, già San Lupo non Lupo. Lo sapevo, io non credevo ci fosse, invece c'è, Prospero, Serafina, e un nostro ascoltatore che ringrazio, dell'Olio, ieri mi ha detto: Giannino, però prima che finisca la trasmissione te ne vai, chiama anche San Pronuncino. Ho detto: ma cosa vuol dire San Pronuncino? Si chiama dell'Olio questo nostro ascoltatore, Alessandro Mia. Dice: San Pronuncino perché voi giornalisti, chi legge i giornali radio, chi conduce le trasmissioni, dovreste fare un po' di pronuncia dei nomi stranieri, perché San dite Pronuncino. Delle cose orrende. Allora grazie al nostro ascoltatore dell'Olio, e diciamo che oggi è San Pronuncino. Ma c'è anche un altro santo. C'è anche un altro santo, un ascoltatore dice che ci scrive da Calimera, paese della Grecia salentina con minoranza linguistica greca. E infatti vuol dire buonasera. Era Calimera, esatto. Dice che San Brizio, vescovo di Tours, non è presente in calendario. È un santo che, accusato di paternità a seguito di relazione con una donna, fece il miracolo di far parlare il lattante di pochi mesi, che lo scagionò dall'accusa. Una storia molto attuale. E Brizio, che si chiama così, dice: io festeggio oggi. Hai capito? il santareggio, ma il miracolo è la paternità, è o far parlare il lattante? Quello è il miracolo di pochi mesi. Di pochi mesi. Che lo scagionò. Chiamandolo papà. Evidentemente sì. Che poi cosa ne sa il lattante? No, ha detto: non è mio papà. Ma cosa ne sa il lattante di chi è il papà? È il miracolo, caro mio. Il miracolo. Il miracolo è solo farlo parlare. cioè, già far parlare uno di pochi mesi è un miracolo. Allora, oggi veniva ucciso nel 1900 Umberto I, però insomma più vicino a noi, e con dolore maggiore, insomma, la morte è sempre la morte, però per dire, nel 1983 veniva ucciso oggi Rocco Chinnici, giudice antimafia, insieme a due di scorta a Palermo. Io i martiri della mafia li ricordo sempre, perché io li considero dei veri padri fondatori della patria, della verità. Pensa che per quella uccisione, come Giuseppe Costanza, l'autista salvato di Falcone, lì c'è Giovanni Papracuri, che io voglio ricordare, l'unico, l'autista di Chinnici salvato, e anche per questo dimenticato. Giovanni Papracuri. Pazzesco, cioè colpevole di essere rimasti vivi. Sì. Anche siamo lui. Veramente. Tra i compleanni, quello di Pietro Marrazzo, che è nato nel 1958, e nel 1883 nasceva Mussolini. Ah, proprio nel momento in cui, sai che la regione Emilia-Romagna bravo. Fa una proposta e vuole cancellarti da questa gadgettistica. Certo. Sai, tu ce l'hai a casa, dai, la bottiglia di vino con il duce, il portachiavi il Borgogna, non so, di tutt'altri gusti proprio. Vabbè, assolutamente. Insomma, no. Diciamo, tutta quella gadgettistica vuole estendere il reato di apologia al fascismo anche a tutte le cose che ricordano il duce. Il commercio, il merchandising. Però ci sono delle bottiglie di vino con Hitler. Addirittura, ma figurati. Comune. No, no, ma io sono... Pensa però per il sindaco di Pradappio, non deve essere una bella cosa, perché un bel po' di attività economica in quel paese, come sai, c'è tutto ancora il fenomeno di chi va a trovare la cappella e così via. Non credo che siano molto felici per questo. Però detto tutto questo, oggi giornata clou, andiamo poi alle notizie. Faccio questo solo piccolo cameo perché oggi giornata clou per l'economia, perché aspettiamo al pomeriggio il consiglio di amministrazione che inizia, è già riunito da due giorni in realtà, di Siena, per vedere come fare a cedere gli NPL e poi l'aumento di capitale. I risultati degli stress test, si sa già che Siena non li supererà. Ieri sera, sorpresa, all'ultimo secondo Passera riemerge con un'altra proposta rispetto a quella già approvata dalla BCE, quindi come al solito alla fine casino, un po' come l'asta all'Italia del 2007. Tante altre notizie economiche, gli italiani che crescono in Francia comprandosi l'aeroporto di Nizza, pensa Atlantia, e nel frattempo Caltagirone, che invece non si fida del sindaco di Roma, esce dalla CEA e anche lui diventa terzo socio di Suez, grande società delle utilities francesi. Insomma, un grande giorno. Sul fronte del Milan, novità? Sul fronte del Milan, nessuna novità. Guarda che però ti criticano, dire Calimera e buongiorno, non vuole, Calisfera e buona hai ragione, benissimo. I nostri ascoltatori, infatti, vedi subito. Verissimo. Subito sì, sono benissimo. Pronti i nostri San Poliglottino. Ma bisogna ringraziarli perché hanno perfettamente ragione. Certo, ma allora, no, sul fronte del Milan non succede niente. Niente. Non succederà niente per i prossimi 12 anni. No, è vero, Berlusconi ha ricevuto gli ultra del Milan. Però mi ha molto colpito questo. Abbastanza, perché insomma, essere ricevuti da Berlusconi, cioè sono andati lì a protestare e lui li ha fatti entrare, venite, vi spiego. Ha fatto un annuncio. No. Che annuncio, non lo so, avrà detto qualcosa loro, gli avrà detto siamo la squadra con il giuoco più bello del mondo, comunque siamo stati ai vertici mondiali. Faremo un grande Milan, avrà detto. Strano, però io non riesco a capire. Io credo che tu mi illuminassi, perché no, ma davvero, ma lo dico senza sfottere, cioè non riesco a capire la dilazione di qualunque decisione sulla proprietà. Ma io ti ho detto che per me è il cupio di Solvi. Addirittura. Sì, cioè che vuole in qualche modo che il Milan ritorni, insomma, per essere ricordato di più in futuro, dice ve lo rilascio dove l'ho ripreso quasi. Però voglio dire, un minimo di l'uomo che era un gigante della propaganda non può essere dotto così. Pensa a Equitalia come ha imparato da Berlusconi. Tu hai visto che Equitalia chiude i battenti, no, ad agosto, fa intera come negli anni 60 Totò e Peppino, chiude, no, come non si usa più in Italia, e la pubblicità creativa, no, al Pitour di Equitalia è presentare il fatto che lei chiude i battenti ad agosto come un regalo fatto ai contribuenti. Ma è fantastico, vabbè. L'Italia del sonnellino pomeridiano che si vende come efficiente. Comunque, cari ascoltatori, oggi parleremo di vari temi, tra cui, purtroppo, non è che vi vogliamo lasciare con un'estate di auspicio che avvengano cose negative, le cose negative avvengono ogni giorno. Hai visto che la Merkel dice non recedo di un passo dalla politica di accoglienza dei profughi. Molti la criticano, però... Insomma, almeno un leader non è che può ogni due mesi cambiare la posizione in base a quello che succede. Certo, come in Italia ogni due minuti. Certo, ci vuole più fermezza e più sicurezza. Oggi mi ha impressionato leggere su Repubblica che anche le maglie della giustizia italiane, imam che vengono presi o reti che vengono smantellate per il GIP sono terroristi, per il tribunale dell'esame sono turisti. Per la procura fino al primo e secondo grado sono terroristi da fermare, per la Cassazione sono liberi di andare. Ricordati che il burka integrale, se vai a Venezia, una circoscrizione giudiziaria della Corte d'Appello di Venezia, dove è competente, insomma, il procuratore Carlo Nordio, lui interpreta, secondo me, correttamente le norme vigenti in Italia come norme che lo vietano, il burka integrale, mentre in tutto il resto d'Italia praticamente non è così, viene considerata una libera espressione di adesione a una parte dell'ISM. A Milano girano completamente travisate. Pensa all'Italia quanto è bella, fatta la legge, ognuno la interpreta come vuole. Esatto. Però ieri Alfano anche ha parlato, dice ci sono le espulsioni, ci sono le persone che abbiamo mandato via. Sentiamo Alfano in Parlamento. Abbiamo arrestato 549 persone, abbiamo eseguito 2.859 perquisizioni su soggetti ritenuti contigui ad ambienti dell'estremismo religioso, abbiamo eseguito 102 espulsioni di soggetti evidenziatisi per il grado di radicalizzazione o per il sostegno ideologico alla jihad, e 8 di questi provvedimenti hanno riguardato imam. 8 imam, vabbè, questo è lo snocciolare i dati, caro Oscar. Sai che alcuni imam... dati che nella sua sintetica, nel suo sintetico riepilogo, non testimoniano di un paese che è immune, perché sono numeri molto importanti. No. E tra l'altro alcuni di questi imam sono stati, questa è una novità, sono stati denunciati dai loro stessi fedeli, penso si definiscano così, insomma, coloro che vanno in moschea, che li hanno visti radicalizzarsi e li hanno segnalati alle forze dell'ordine, insomma. Bisognerebbe fare qualcosa. Allora, fenomeno che sembrerebbe nuovo. Allora, su questo io sono onesto, perché ieri, quando abbiamo deciso di affrontare il tema, ho fatto un po' di telefonate ad amici a polizia che si occupano di queste cose qua. Alcuni di quelli che parlano con Cristina Giudice, che sottolineo sempre come la mia giornalista di riferimento per quello che ricostruisce poi i diversi circuiti dell'islamismo e della radicalizzazione della comunità islamica in Italia. Allora, alcuni mi hanno detto, sì, è vero, è una novità, ma attenzione però, state attenti cari giornalisti, perché già diverse volte in passato è avvenuto che le segnalazioni di radicalizzazioni provengano da amici conoscenti e all'interno anche delle associazioni delle comunità islamiche. Però noi siamo molto attenti come inquirenti a non dirlo, per evitare che si espongano poi a ritorsioni. Quindi mi limito a dire quello che mi è stato detto, io non ne so di più, è inutile, certo, millantare competenze quando non ci sono. Questo imam che è stato per esempio mandato via 2 giorni fa, Mohammed Madad, da Noventa Vicentina, aveva una figlia che chiamava Jihad, forse insomma, non tutti sanno l'arabo, e io non so l'arabo, ormai siamo diventati familiari con questa parola, che non vuol dire solo guerra santa, ma anche sforzo, no? Sforzo per ambire, un sforzo su se stessi, no? Però di perfezionamento, purificazione, di guerra santa anche. Era, è passato anche a Carpineti, in provincia di Reggio Emilia, di cui abbiamo il sindaco in diretta, Tiziano Borghi. Buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e ai vostri radioascoltatori. Buongiorno. Credo che la famiglia sia ancora da quelle parti, no? Allora, la famiglia era in vacanza in Marocco durante l'espulsione, sì, di Mohamed, quindi se n'è andata subito dopo la chiusura delle scuole verso il 6-7 di giugno. Quindi non sono più rientrati in questo momento, non sono più rientrati. Però insomma lei l'avrà visto questa persona, l'avrà conosciuta da sindaco, ne avrà avuto a che fare? Sì, questa persona l'ho incontrata, l'ho conosciuta, esercitava la sua funzione di imam in un comune limitrofe che si chiama Castelnuovo Monti, dove aveva una pseudo moschea, tra l'altro abusiva, poi è stata chiusa. E però, come qualcuno di voi poi ha accennato prima, gli stessi suoi diciamo confedeli non erano molto allineati con il suo pensiero. Ma perché? Si raccontava di quello che diceva lui? Onestamente non mi ha mai trapelato nulla di cosa diceva, però so che la stessa comunità sua poi non lo riconosceva più come imam, quindi lui stesso mi venne a dire che si sarebbe trasferito nel Vicentino subito dopo alla chiusura della scuola. Dove è stato precise, poi, non me l'ha detto. Non l'ha detto. Dove è stato poi preso, pescato e mandato via. Esatto. Senta, esatto, è vero, ho letto su un giornale che le amministrazioni comunali, non so se la sua, pagano o hanno pagato la casa alla famiglia dell'imam? No, questo non è vero. È vero che noi, i miei servizi sociali del mio comune di Carpineti, sostenevano con le quote destinate all'infanzia, tutelavano l'infanzia, in quanto lui aveva 4 figli, tra l'altro abbastanza integrati nel mondo della scuola che frequentavano. Aveva 4 figli minori e quindi la normativa prevede una tutela per i minori. Non grosse cifre, comunque, meno di 2.000 euro all'anno. Ecco. Ma sindaco, nel rapporto che ha avuto con lei nell'ambito della correttezza istituzionale dovuta in questi casi, ma in ogni caso il soggetto in questione si comportava freddamente in maniera distaccata, esprimeva giudizi, cioè era un soggetto rispetto al quale anche un semplice contatto istituzionale rivelava all'occhio attento qualcosa che non funzionasse oppure no? Allora, per quanto riguarda i rapporti col sottoscritto, direi di no. Io ho discusso con lui il nome della figlia, come avete accennato voi prima, lui me l'ha giustificato con l'altro termine. Quindi sforzo, purificazione. Esatto. Perché la chiamava così proprio, Jihad. Sì, già era il suo nome. Sì, dico, ma mi sembra inopportuno insomma che lei chiami una figlia così, visto le situazioni di questo momento. Però tra l'altro ricordiamo ai nostri ascoltatori che secondo le leggi vigenti la nostra anagrafe, gli ufficiali dell'anagrafe possono rifiutare alcuni nomi quando vengono imposti e dichiarati dai genitori in Italia, ovviamente cosa diversa è se sono già sui documenti, però possono rifiutarli. In questo caso, se qualche musulmano in Italia dice voglio chiamare mia figlia Jihad, l'ufficiale della nave può dire no, non puoi chiamarla, punto. In questo caso però, giustificandola con l'accezione sforzo, è chiaro che lo so, la questione è diversa. È vero, non per giustificare il fatto che sia stata registrata con questo nome, però è successo 16 anni fa e quindi probabilmente esattamente, ha ragione lei. L'attenzione, certo, allora, ha ragione. Era meno conosciuto la definizione di questo termine 16 anni fa. E, però è vero, come dicevo prima, che il mio predecessore era una donna e con, siccome lui aveva dei rapporti particolari, nel senso che non riconosceva come noi occidentali, insomma, la parità di sesso, i rapporti erano molto stridenti, ma semplicemente perché cioè ci sta donna, dicendo che ne so, che non stringeva la mano al suo predecessore sindaco di Carpinetti, ecco, perché era donna. Questo non lo so, questo atto materiale non glielo so dire. Beh, però rapporti stridenti, però per lei il fatto stessa, che insomma si lamentava di queste azioni un po' violente nei propri riguardi, ma cioè sicuramente in urbane. Ma una volta ha minacciato di occupare l'ufficio del sindaco, insomma. Adesso io non conosco bene e tutti i particolari, comunque su un giornale locale qualcosa è stato riportato da questa signora. Perché era una donna. Ma ecco, cioè, lei ci sta dicendo che il fatto che lui avesse dei rapporti non, come dire, cordiali con cordiali. Il comune era dovuto al fatto che era donna il sindaco, cioè non per altri motivi. Ma guardi, io non ne vedo altri, perché poi ultimamente i rapporti erano abbastanza cordiali con l'amministrazione comunale, precedentemente meno, ma era un sindaco molto attento al sociale, quindi non vedo altre motivazioni se non questa, insomma. Lui era uno che pretendeva molto, però al di là di questa piccola cifra istituzionale quasi obbligata per il fatto che bisognava sostenere i minori, soprattutto all'attività dell'istruzione. Quindi non è vero però che gli si pagava la casa, perché io ho letto questo sul giorno. L'ho letto anch'io, però non è vero. Veniva elargito alla famiglia una cifra per tutela dei minori. Vabbè, caro sindaco, intanto ci ha regalato questo spaccato da una località piccola. Quanti abitanti fa Carpinetti? 4.100, è una ridente cittadina dell'Appennino Reggiano, abbiamo dei bellissimi castelli Matilde. No, verissimo. Verissimo. Fantastico, quindi giusto. Non è pubblicità, è verità. No, ma è giusto, è quando la verità è la verità. E quindi insomma, se qualcuno capitasse anche da quelle parti, perché non fare... Capitano. Si potrebbe trovare anche Prodi in bicicletta, l'ex primo ministro, in quanto ha una sede da questa parte. Va bene. Cittadino onorario del nostro comune. Allora intanto la ringraziamo, sindaco Tiziano Borghi, sindaco di Carpinetti, Reggio Emilia. Insomma, può essere una piccola storia d'Italia. Beh no, però fa capire dal basso come funziona. Ma ci rendiamo conto, voglio dire, un imam o sedicente imam in una sedicente moschea, che poi sarà un centro islamico trasformato in moschea, perché non è una moschea sicuramente, che tra l'altro non ha rapporti col sindaco precedente a Borghi perché è donna. Ma Già. Voglio dire. Va bene, insomma, questo è. Riccardo ci chiama da Roma, buongiorno. Buongiorno ragazzi. Io ragazzi, perché per me siete come amici, ogni volta che vado al lavoro siamo ragazzi dentro. Vi sento sempre. Infatti ora voi andate in ferie, io rimango a lavorare, è una tragedia questa cosa qua. Non so come fare. Radio 24 va avanti. Sì, per carità. Comunque, non torna a settembre, io mi devo licenziare dal mio lavoro. No, Riccardo, no, nessuno è indispensabile, il cimitero è pieno di indispensabili, meglio sostituiti, sono tutti meglio di me, non c'è problema. No, io volevo intervenire su un discorso anche che facevate ieri sulla guerra di religione, no? Tra virgolette. Ma io penso che tutto questo discorso, non dico i giornalisti, ma in generale nell'opinione pubblica italiana, tutto ciò che la compone, quindi i giornalisti, gli ascoltatori come me che intervengono, la gente che scrive su Facebook, tratti questo tema in maniera davvero troppo semplicistica. Cioè, ma chi sono gli islamici? Cioè, questa etichetta degli islamici è una cosa che contiene marocchini, arabi, iraniani, tantissimi asiatici. Non possiamo mettere l'etichetta islamici, demonizzare il nome islamico e poi aspettarci che, diciamo, non ci siano conseguenze. Ovviamente non intendo in termini di attentati e cose del genere, ma insomma che poi nel tema dell'opinione pubblica questa cosa non abbia influenza. Riccardo, io l'ho detto nei giorni scorsi, per quel che mi riguarda lo ribadisco, e credo che il 99, se volete anche il 99,9% dei musulmani siano persone assolutamente per bene, che vogliono fare la vita come noi, la vita normale. Poi però purtroppo c'è una piccola frangia radicalizzata, e quello è un grosso problema. Tutto qui. Se quello è un grosso problema, però diciamo siamo anche noi ad amplificare questo problema, perché, cominciamo a etichettarli appunto come terroristi, soprattutto prima che come islamici. Perché anche quando avviene per esempio la strage in Norvegia, la strage dei cristiani, ma che vuol dire? La strage di un pazzo. Riccardo, su questo non sono d'accordo. Sono terroristi islamici. Guarda, Riccardo, io dico solo questo: io passo metà della giornata a rispondere agli ascoltatori per quello che avevo detto sulla frase del Papa stamattina. Tra l'altro, chi volesse approfondire trova sul foglio molti articoli su questo argomento. Io ieri ho ricordato, con tutto rispetto per Papa Bergoglio, non sono d'accordo col dire è una guerra, sì, ma fatta dai soldi, il denaro, le armi, e non una guerra di religione. Sai che Sallusti ha detto che è un marxista, ti ha copiato? Mi ha copiato. No, scherzo, ovviamente. Ma mai, il direttore non copia uno senza contratto, lo sai. Detto questo, perché noi siamo convinti, perché su questo ti assicuro che se vai a vedere Facebook, Alessandro mi ha scritto tante volte su questo argomento, no? A dire non facciamo finta di non vedere che c'è una componente religiosa, ma non perché noi vogliamo accomunare, come dici tu, cioè non vogliamo accomunare, cioè non sappiamo distinguere i sunniti dagli sciiti, e questo estremismo radicale sunnita all'interno del mondo sunnita, che considera gli sciiti come nemici mortali, li elimina negli attentati. Il punto è però che questa parte dell'Islam radicale, che è tornato a impugnare la spada, c'è e lo fa in quanto propone una certa lettura estremista, feroce, da respingere, del Corano. Quindi una componente religiosa c'è ed è inutile non vederla. Certo. Tutto qua. Che non significa che noi siamo per le crociate, no. Ma no, esatto. Non significa che vogliamo buttare tutti a mare. Perché la lettura è complessa. No. La lettura è complessa, ma partiamo c'è, come da quegli aspetti di prova verità. Oggi sulla stampa, per l'ennesima volta, meraviglioso articolo di Quirico, in cui testualmente lui ripropone questa chiave di lettura, e insomma la ripropone da uno che l'ha vista da vicino. Tra l'altro, tra un attimo avremo Zedine Elzir, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche Italiane, e quindi faremo due chiacchiere con lui tra poco. Allora, cari ascoltatori, sono le 8:42 minuti, caro Oscar, con noi c'è il presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, Izzedine Elzir. Buongiorno Elzir e benvenuto. Buongiorno. Senta, ha sentito anche lei Alfano che ha detto delle espulsioni, tra cui anche 8 imam. Le chiedo questo, siccome si è letto di storie anche di fedeli che hanno denunciato i loro imam, che evidentemente sono radicalizzati, fanno bene? Devono fare così? Noi nel 2006, come OCOI, con altre realtà sul territorio delle comunità musulmane, abbiamo fatto un documento contro il terrorismo, dove in una parte di questo documento, invitando i nostri fratelli musulmani a denunciare dove hanno dei sospetti, diciamo, verso qualcuno che può danneggiare la nostra sicurezza, la sicurezza del paese. Credo che c'è una bellissima collaborazione sul livello territoriale fra la comunità islamica e le nostre forze dell'ordine. Quindi fanno bene, insomma, devono lei ribadisce, devono denunciare. È la sicurezza del paese e la nostra sicurezza, e ognuno di noi deve essere responsabile, non si può tirarsi indietro. Posso fare una domanda, ma in questi ultimi due anni, a fronte dell'aumento, l'intensificazione evidente sotto gli occhi di tutti noi degli attentati e della ferocia del Daesh anche in Europa e non solo, in Asia e nei paesi, lo ricordiamo sempre, in Iraq, in Afghanistan, con centinaia e centinaia di migliaia di musulmani che cadono sotto i colpi degli attentati di Daesh, ma a fronte di questo, in Italia, nelle comunità musulmane, a suo giudizio, per il segnale che avete, la paura in caso di esporsi per segnalare elementi radicalizzati, sulla via di radicalizzarsi, predicatori estremisti che invitano al jihad e così via, la paura è cresciuta all'interno della comunità musulmana in Italia Ed è cresciuto anche il fastidio per vedersi tutte le volte rivolgere la domanda: dovete prendere le distanze in maniera esplicita a ogni attentato? Ecco, questi due fenomeni in questi anni come sono evoluti secondo lei? Allora, certamente il fastidio di associare, diciamo, questi criminali alla comunità islamica c'è, in particolare da parte dei nostri giovani, che dicono: noi non ci riconosciamo in questi criminali, questi terroristi, e perché io devo associarmi? Allora noi cerchiamo di spiegare a loro che è un atto di responsabilità verso i nostri concittadini di condannare, purtroppo ogni giorno, perché più o meno ogni giorno abbiamo un attentato, e non dobbiamo stancarsi perché, ripeto, è un atto di responsabilità. La paura che può capitare un attentato è purtroppo... esiste, la paura c'è, viviamo in questa paura, ma ripeto una bellissima frase del poeta palestinese: la paura non impedisce la morte ma impedisce la vita. Perciò la paura umana sì, ma la paura che gonfiata no. La paura gonfiata no. Però cosa risponde imam alle questioni della religione? Cioè c'è il grande dibattito, io sostengo, anche Oscar Giannino, che non sia una guerra di religione, però sostengo che la religione c'entra, cioè quelle persone ci colpiscono, quelli fanatici, ci colpiscono pensando di colpire degli infedeli, i crociati, i kafir, no? Quelli che non sono musulmani. Quindi non si può dire che la religione non è una motivazione alla base dei loro gesti. Lei come la pensa? Attenzione, allora dire che non c'è guerra fra le religioni è una cosa, e che questi criminali assassini o qualcuno di loro usa la religione, e questo è un dato di fatto, cioè, se no neghiamo la realtà. Solo che la religione non c'entra, realmente non c'entra, ma che viene usata da qualcuno di questi assassini, non tutti, ma da qualcuno di questi, è un dato di fatto. Attenzione solo di non cadere in questa trappola di puntare il dito verso la comunità islamica. Questo sicuramente. Perché purtroppo, essendo che abbiamo ogni giorno quasi mediamente un attentato, perché delle volte anche 2-3 attentati a livello mondiale, e se parla spesso terrorismo islamico, terrorismo per il musulmano, è veramente vive questi momenti con grande tristezza, perché vengano uccisi esseri umani, spesso la maggior parte delle vittime sono suoi confratelli, e perciò quando si parla che uccidano solo il kafir, diciamo il non credente o diversamente credente, non è vero. La maggior parte delle vittime, a me non mi piace dividere vittime musulmane e non musulmane, perché vittime però vittime sono musulmane, certo, c'è una guerra interreligiosa molto forte. Per questi criminali noi siamo traditori, noi siamo venduti, perché non condividiamo la loro idea, la loro azione, anzi lo condanniamo addirittura. Perciò loro vogliono questa divisione fra musulmano e non musulmano. Mm-hmm. Noi diciamo no. Certo. Noi siamo insieme tutti quanti contro questo cancro dell'umanità. È vero che andrete nelle chiese domenica? Cioè volete fare questa manifestazione, che i musulmani entrino nelle chiese con questo gesto di fratellanza, immagino? È invitato dove possano, diciamo, musulmani, di andare a trovare i loro fratelli cristiani come un atto di solidarietà. Nella realtà francese quasi si fa dappertutto, in Italia diversi già hanno fatto, portando un messaggio di cordoglio e di solidarietà ai arcivescovi, ai cardinali, ma anche alle parrocchie, dove c'è la possibilità di andare, l'abbiamo invitato, e diversi già hanno fatto, diversi questa domenica partecipano anche alla messa della domenica. Alla messa della domenica. Va bene, no, le chiediamo anche una cosa sul Papa, ovviamente, il Santo Padre, che è stato criticato, lo stesso Oscar, tu l'hai criticato, dicendo, insomma, poco coraggioso, e su molti giornali viene criticato per scarso coraggio. Lui ci crede, crede a quello che ha detto, ovviamente. Il Papa, quando dice non è una guerra di religione, pensa di dare un'ulteriore mano alla causa positiva, di non generalizzare. Quando poi arriva a dire non c'è alcun aspetto religioso, Ecco lì, io non sono, con tutto rispetto per il Papa e per ogni credente, ribadisco che poi quell'opinione del Papa non fa parte della dottrina coperta dall'infallibilità ex cathedra. Anche se siete i più fervidi cattolici, non siete tenuti a considerare un articolo di fede, quindi si può benissimo opinare. Ecco, io in quello credo che sia sbagliato, cioè mi riconosco nella distinzione che abbiamo appena sentito dal Presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, no alla guerra di religione, ma non si può negare che questa parte dell'estremismo radicale, del califfato, della spada impugnata sunnita, proponga una interpretazione radicale, sbagliata quanto volete, però tenti di usare la religione in questo. Yeah. In questo Elzir, è su una risposta sulla posizione del Papa, immagino che lei abbia apprezzato le parole. No, ma io concordo con le parole del Papa al 100%, e attenzione, io credo oggigiorno, sempre, ma oggigiorno più che mai dobbiamo essere responsabili sulle nostre parole. Il Papa, credo con grande coraggio, grande responsabilità, ha detto che non è una guerra tra gli uomini e le donne di diverse fedi religiose. Ma certamente lui ha sottolineato che qualcuno, per motivi economici, per motivi di potere, usa queste fedi religiose o per dominio dei popoli, perciò c'è un uso errato, questo certamente. Perciò io veramente ho apprezzato le parole del Papa, e non solo queste parole, diversi gesti che sono stati fatti, perché oggigiorno abbiamo bisogno di parole equilibrate, responsabili, e di gesti che permettano di costruire ponti fra diverse fedi religiose, fra diversi pensieri. Ha sentito, giusto per il rispetto dei valori nei paesi in cui si vive, prima avevamo il sindaco di Carpineti, provincia di Reggio Emilia, dove ha vissuto anche questo sedicente imam Mohammed Madad, che è stato espulso, che diceva: oh, questa persona non voleva avere a che fare, non aveva rapporti cordiali col sindaco prima di me, solo perché il sindaco era una donna. E questo ci pone il problema, al di là dell'elemento religioso, se uno sia sunnita, sciita, quanto credente o quanto no, e se sia cattolico o meno, o cristiano, l'autorità istituzionale italiana. Come si fa, domanda, però, a definire un quadro comune di valori per essere cittadini italiani, nel senso che per vivere in questo paese il rispetto dei diritti fondamentali, tra cui la piena parità tra uomini e donne, i diritti delle bambine di frequentare la scuola senza che le famiglie le ritirino, come purtroppo capita ed è documentato nella comunità musulmana pakistana nel nostro paese e così via, come si fa a definire questa cosa senza che il musulmano credente la viva come un'imposizione di una civiltà contraria ad alcune sue convinzioni religiose? Ma in maniera molto semplice, abbiamo un valore che unisce tutti quanti noi come cittadini, la nostra carta costituzionale. Ogni cittadino si deve riconoscere in questa carta dei valori, la nostra Costituzione italiana. Chi non si riconosce è libero, come è entrato può uscire. Diciamo, dobbiamo rispettare la nostra carta costituzionale, che è la base di tutti, se ognuno deve fare della sua testa, non siamo neanche un paese, non siamo una realtà, non siamo una comunità. E le opinioni, la diversità, una ricchezza, una risorsa, ma la base comune è la nostra questione italiana. Esatto. Chi disconosce i diritti fuori. Mi sembra anche questo mi chiaro. Sembra assolutamente giusto. Noi la ringraziamo, Ezzedine Elzir. Grazie davvero, presidente dell'Unione delle Comunità Islamiche d'Italia, che domenica appunto parteciperà alla messa in segno di solidarietà, di fratellanza, di vicinanza, di unione. Francesco, per esempio, posso dire ancora una cosa? Ieri molti appartenenti a gradi livello della gerarchia della Chiesa ortodossa, sì, sui giornali, sia nei Balcani sia in Russia, c'è stato un dialogo molto aperto in cui hanno detto tutti: Papa, noi ti vogliamo bene, ti riconosciamo il grande sforzo di avvicinamento con noi, perché l'intensificazione del dialogo interreligioso con gli ortodossi è molto forte, ma non siamo d'accordo con quello che hai detto. Cioè, nella posizione ortodossa, soprattutto negli ortodossi poi russi, molto vicini a Putin, non si condivide l'idea che non si possa dire che la lotta al terrorismo jihadista è una lotta anche a un'interpretazione religiosa, perché ha questa interpretazione di voler mettere il Corano come unica legge pubblica. Ecco, allora, mi ha molto colpito vedere i toni degli ortodossi rispetto a quelli del Papa. Francesco da Trapani, buongiorno, concludiamo con lei, poi andiamo avanti fino alle 9:30. Buongiorno, volevo sottoporre solamente una mia brevissima considerazione. È vero che sicuramente la religione c'entra, come diceva lei poc'anzi, però è pur vero che ci sono alcuni stati, soprattutto del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti, Qatar, che come tutti sanno finanziano questi terroristi, e questo lo si sa. Dico, come mai questo non viene sottolineato? Sta gente continua a fare i propri evidentemente interessi economici. Mi viene in mente, non lo so, il prezzo del petrolio troppo basso, adesso non so. Però evidente che questa gente ha degli interessi. Ma che ci sia uno scontro di egemonie contro l'Iran, contro l'Iran sciita da parte dell'Arabia Saudita, Qatar, eccetera, eccetera, che hanno finanziato le madrasse qaidiste nel mondo, questo è un fatto. Però, ripeto, anche quella, attenzione, è uno scontro tra interpretazioni politiche, ma di come si applica la legge coranica. Questo è lo scontro tra il babismo e gli sciiti iraniani. Ma ripartiamo da qui tra poco, anche perché anche oggi Libero racconta: noi li finanziamo dal punto di vista delle armi, gli diamo i soldi. Insomma, chiamateci all'800 24 00 24, giornale radio, poi rientriamo. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Sebastiano Barisoni. Parliamo di retribuzioni alla luce dei dati diffusi ieri dall'Istat sui primi sei mesi dell'anno. Guardandoli a livello aggregato, la valutazione è molto semplice: le retribuzioni complessivamente nel nostro paese sono aumentate dello 0,7% nei primi sei mesi dell'anno rispetto ai primi sei mesi del 2015 e quindi sono cresciute più dell'inflazione. Il dato però è aggregato e quindi va scorporato per le sue diverse voci. Infatti, guardando dentro questo 0,7% di incremento complessivo, si scopre che tutto l'incremento è stato registrato dal settore privato, più 0,9%. Di cui uno 0,6% di aumento delle retribuzioni nell'industria e un 1,1% di aumento delle retribuzioni, sempre rispetto ai primi sei mesi del 2015, nel settore dei servizi. La variazione è stata invece pari a zero per i dipendenti della pubblica amministrazione, ma la spiegazione è semplice: c'è il blocco della contrattazione. E qui allora veniamo al secondo aspetto più delicato. Sono complessivamente infatti circa 50 i contratti in attesa di rinnovo, che coinvolgono 8 milioni e 200 mila dipendenti. Ma se per quelli del settore privato 5 milioni e 300 mila la sfida è nelle trattative tra Confindustria e sindacati, laddove gli imprenditori vorrebbero legare gli aumenti salariali all'aumento della produttività della singola impresa, per il pubblico il tema è più delicato e più ampio. È innegabile infatti che i contratti andranno rinnovati, ma il tema del merito nella pubblica amministrazione passa anche attraverso il tema dei rinnovi contrattuali. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Mattino. Attenti a noi due. Allora Oscar, siamo qui, sono le 9:05 in diretta fino alle 9:30. Higuain. Higuain, perché ha detto non voglio stare con De Laurentiis. Ma robe da batti, vabbè. Higuain, e poi questa banda nara non riesce a portare i cardi a Napoli. Pensa un po'. Che devo fare? Come farà? Perché sei colpito da Wanda Nara? Io ho una stima vera. Però, hai una stima vera. Posso dirti adesso? Lo so. Può sembrare una battuta. Non è per la sua avvenenza, non è il mio tipo. Ma perché? I manigoldi del calcio sono altri. Molti dei procuratori che girano il mondo del calcio sono truffatori di quarto ordine. E lo dico senza voler mancare di rispetto a chi invece fa il mestiere nobile. Chi procaccia cartellini con valori che servono solo a contraffare e a equilibrare gli attivi patrimoniali dei club di calcio per giocatori che fanno parte per finta delle rose comprate e vendute per cifre che servono solo a questo pareggio. Ecco, il più è quella gente lì. Mi dispiace dirlo, ma è uno degli aspetti. Si occupa solo del suo fidanzatino. Lei si occupa e combatte come una leonessa, e almeno lo fa esplicitamente. Perdonami, allora tanto vale dire che Wanda Nara aggiunge un tocco di credibilità, non di scarsa credibilità, come chiedono alcuni. alcuni. Dicono alcuni: ah, ma come? Dai, Giannino, non rompere le scatole. Quella chiede di fare anche il film con la Filmauro di De Laurentiis. Sì, sì. Almeno lo chiede esplicitamente. Poi almeno insomma, qualcosa dovrà mettere in campo. Procuratori, no? Che ottengono per sé pacchi di milioni, eccetera, già senza dirlo. No? Scusami, ma un po' così. Sì, dice lei: voglio fare il film con... Molti non li dichiarano i soldi che prendono, per esempio. Anzi, la maggioranza, Stai saltando troppo un interista, comunque. No. Calmati. E infatti lo volevo portare a Napoli, invece niente, calma. Maledizione. Valerio ci chiama da Firenze. Buongiorno, Valerio. Sì, buongiorno, buongiorno. Senta, no, io ho seguito un po' il dibattito, sì, eccetera. Volevo dire semplicemente che l'Islam sunnita ha dei principi che sono aderenti al 100% a quello che noi riteniamo l'Islam radicale. C'è addirittura un filmato che gira su internet, basta cercarlo, di una riunione di internazionale di islamici sunniti in Svezia, dove chi tiene il congresso, insomma, fa proprio domande dirette agli astanti, insomma, ai partecipanti al congresso, chiedendogli se fossero radicali o meno. No, noi siamo normali sunniti. E cosa pensate voi della Sharia? E tutti entusiasti. E cosa pensate dell'applicazione in toto delle pene, anche corporali, che vengono propinate e proposte dal Corano? Sono le migliori possibili, perché le dice Allah, e quindi seguono alla lettera il dettato di Allah. Ora, io come dire, non mi esprimo in senso positivo o negativo, io personalmente la penso in maniera diversa, per carità, per rispetto per tutti, eccetera. Non mi sembra che questo tipo di impostazione, quindi accettare il taglio della mano, sì, per chi ruba, sì, sì, accettare la lapidazione. Ma lei per dice un problema ce l'abbiamo, grande e grosso. No, però spieghiamo, tutti i sunniti sono così, perdoni, no. Se pensi un secondo alla storia, la storia è recentissima, non è successo la storia dei secoli, perché nella storia dei secoli molto ci sarebbe da dire, perché per secoli ci sono stati diversi fenomeni dell'islamismo sunnita in cui era il potere politico a comandare, sia pur nel rispetto alla legge islamica, a raffinati cultori della scienza e della filosofia quando noi li avevamo abbandonati, noi dobbiamo la conoscenza di Aristotele, eccetera, eccetera, quel mondo, eccetera. Ma al di là di quello, nel Novecento, Nel mondo sunnita sono fioriti tutte le forme di potere politico nazionale per reazione al colonialismo, in cui sì, l'Islam c'era, ma nella totale affermazione di un modello nazionale, istituzionale di tipo occidentale, perché da Nasser al Marocco, all'Algeria, tutta la storia dell'affrancamento coloniale è stata segnata da classi dirigenti di quel tipo. Erano musulmani, erano sunniti, tutti sunniti. Poi la cosa inizia a cambiare dalla fine degli anni 70, quando l'Occidente consente a Khomeini di tornare in Iran, e sorpresa, Khomeini fa esattamente quello che diceva, mentre l'Occidente credeva di no, cioè instaura, dal punto di vista sciita, il fatto che ci si governa in base al parere dei mullah e degli umam. Ecco, da quel momento in poi si torna verso versioni, sia quelle sciite sia quelle sunnite, molto più radicali. Ma fino a quel momento, per decenni e secoli, non è che uno dice i sunniti tagliano la testa e dice la politica è tagliare la testa. Semplificazioni banali. Certo, abbiamo queste problematiche che sono registrate anche dal nostro ascoltatore, ma dire che tutti sono così veramente di una banalizzazione estrema. Massimiliano invece ci chiama da Milano, buongiorno. Buongiorno. Velocissimo, il Papa ha detto: tutte le religioni vogliono la pace, la guerra la vogliono gli altri. Testuale. Sì, testuale. Il presidente dell'UCOI, se non ho sentito male, ha sostanzialmente confermato questa indicazione del Papa, addirittura ringraziandolo poco fa da voi. Sì. Quindi io sinceramente, e lo dico con rispetto e con grande simpatia verso di lei, verso Giannino, l'ostinazione di Giannino non la capisco. Cioè, perché bisogna costantemente interpretare quello che è semplice? Non vorrei che l'errore del Papa fosse quello di essere troppo semplice. Cioè, siccome la fa facile, ma la fa facile per dirlo, per raccontare, cioè, come dire, per spiegarsi a tutti, questo non va bene, bisogna essere più complicato. Non è che più complesso. Però se il Papa e il presidente dell'UCOI dicono una cosa sia la verità. Non è che quella cosa è la verità, è l'opinione del Papa, è l'opinione. C'è una religione che vuole la guerra? Ci sono delle persone, degli uomini liberi che sbagliano e vogliono Sì, ma il problema è che sbagliano, quelli che sbagliano, e lo ha detto anche il presidente del Lukoil, quelli lì che colpiscono, lo fanno in nome, pensando di interpretare il dettato di quella religione, la religione musulmana. Lo ha detto il presidente del Lukoil, cioè negare che agiscano in nome della religione quei pazzi è negare la verità. E questa cosa invece è un passo che... che è mancato, che a molti manca come perché ammissione. Una componente fondamentale, caro ascoltatore, dell'estensione della radicalizzazione è quella religiosa. Allora, Papa può dire quello che vuole. Benedetto XVI diceva l'opposto. La invito a rileggere il discorso di Ratisbona su il dovere di dire le cose col loro nome, sulla parte di Islam che è tornata a impugnare la spada. Di questo esplicitamente trattò quel discorso che solleva molte polemiche e che, letto col senno di poi, secondo me è ancora più fondato. Sto parlando di Benedetto XVI, non sto quindi criticando né per anticlericalismo né per... Si figuri, lei dice che i leader devono semplificare le cose complicate? No, io penso che i leader hanno il dovere di sapere che le cose complicate hanno bisogno di risposte complesse. Si può semplificarle nel presentarle, ma la semplificazione di cose complesse o è demagogia o è errore. Non so, Massimiliano, lei che dice? Dico che non mi sembra il caso del nostro pontefice, okay. Il quale come dire, mi sembra che abbia preso posizioni in quest'ultimo periodo, tra l'altro in questi ultimi mesi, piuttosto forti, piuttosto importanti. Quindi io non capisco perché come dire, se ne faccia, si debba continuamente e costantemente interpretare quello che dice. Ha detto una cosa semplice: le religioni non vogliono la guerra, chi la vuole sono gli altri. In questi altri bisognava specificare, ci sono quelli che pensano, sono quelli che radicalizzano l'Islam, quelli sì. Che, per carità del cielo, va bene, ma stiamo parlando di, come dire, stiamo invece discutendo dell'errore che avrebbe fatto il Papa nell'affermazione principale. E non è così, il Papa non ha detto una cosa capito, sbagliata. Ma questa è una sua opinione, è una sua opinione. È una sua opinione. Guardi che legga qualsiasi giornale oggi sul Foglio, ci sono discussioni del fatto di dire il Papa su questo sbaglia, ma io non sto dicendo che sbaglia, per Oscar Giannino sbaglia, io sono dubbioso, come solito sono dubbioso, non so neanche, mi interrogo, ma non è che lei può dire è una verità assoluta quello che ha detto il Papa, perché lei sostiene questo. No, guardi, è da stamattina alle 6:30 che sì. La seguo, quindi come dire, mi sono preso, come dire, mi seguo da stamattina, quindi sto dicendo, lei mi dica se c'è una religione che vuole la guerra, allora su quello discutiamo. Ma se lei mi dice che il Papa sbaglia perché dice che le religioni non vogliono la guerra... Senza intignare che... perché sennò poi le cose ovviamente stanno. Le rispondo, siccome l'Islam, a differenza delle chiese cristiane, non ha, sottolineiamolo sempre, una espressione di gerarchia che impegni la linea, partiamo da questo fondamento, perché lei giustamente la mette sulla religione. Allora, questo è il fondamento su cui purtroppo ci obbliga a dire, se vogliamo guardare la verità, che c'è una parte, sì... anche di sedicente, ovvero, perché lei sa che gli imam possono essere anche sedicenti, l'imam è semplicemente colui che è riconosciuto come guida alle prediche, le cose, che fa dell'espressione religiosa, quindi un pezzo di religione che invoca a tagliare le teste. Quindi sì, caro ascoltatore, un pezzo di religione vuole la guerra dell'Islam. Sì, perché siccome lei non mi può dire Al-Azhar è un punto di riferimento teologico, non impegna gerarchicamente i musulmani. L'Islam è fatto così e io lo rispetto, però proprio perché è fatto così non posso non vedere gli Islam che predicano in parti di mondo musulmano che in quanto imam, cioè autorità religiose, invitano a tagliare probabilmente le teste. Questo Mohammed Madad, che è stato espulso dall'Italia e denunciato dai suoi stessi fedeli, diceva che la religione musulmana ti impegna a tagliare teste agli infedeli, quindi magari distorcendo il messaggio religioso, però questo è dato di fatto. Comunque Massimiliano, la ringraziamo ovviamente per il suo parere, tutti i pareri perché sono accetti, perché è bello, confronto discutere. È sale di tutto. Eccomelo. Dobbiamo però parlare di un altro argomento. Tu fumi, caro Oscar. Sigari toscani. Antichi toscani o ambasciatore italico, che è il fatto di un piccolo che sfida il monopolio, ex monopolio pubblico, un produttore in Veneto. Io non fumo, ma così, lo dico solo per... così per dati di cronaca. Io mi porto dei pacchetti anche quando vengo cremato. Adesso l'ho dato a disposizione, avrò dei toscani per ammorbidire l'odore. Però sapete che sui pacchetti di sigarette, non dei sigari, ma di sigarette, ci sono queste pubblicità, insomma, queste immagini shock anche, no? Per dire non solo il fumo fa male, provoca il cancro, ma anche adesso fotografie vere e proprie che vorrebbero colpire colui che fuma, a dire attenzione, cioè immagini, non so, proprio di parti anatomiche, i polmoni anneriti, eccetera. Questi nuovi limiti sono introducendo e recependo una direttiva europea antifumo, esatto. La 40 del 2014. Ieri, per esempio, Massimiliano Parente sul giornale dice: allora perché non mettiamo sui prodotti dolciari che fanno venire il diabete l'immagine degli arti tagliati per il diabete? Gli ascoltatori si arrabbieranno, però io o penso sulle che immagini, abbia assolutamente sulla bottiglia di whisky, il fegato spappolato per la cirrosi epatica. Giustissimo. Allora, Gianluca Ansalone, buongiorno, direttore relazioni esterne della British American Tobacco. Lei, vabbè, è di parte, buongiorno. Ovviamente, ma insomma, porta avanti. Che ne pensa di questa cosa? C'è un razzismo nei confronti del fumo? Guardi, vi stupirò, noi non siamo contrari all'introduzione di misure che possano accrescere la consapevolezza e il rischio per i consumatori, e questo è successo negli ultimi 20 anni, potrei fare una lista lunghissima di provvedimenti europei, italiani, nazionali che sono stati presi in questa direzione, il divieto di sponsorizzazione, il divieto di pubblicità, le avvertenze sanitarie che sono sui pacchetti da diversi anni, sì. Insomma è giusto ed è corretto che il consumatore sia pienamente avvertito del danno legato al fumo, quindi. Oggi questo c'è, perché sui pacchetti di sigarette non c'è scritto il fumo potrebbe uccidere, forse fa male, c'è scritto il fumo uccide. Il tema della nostra riflessione è su queste immagini shock, come giustamente vengono chiamate, ci permettiamo di avere un dubbio sulla effettiva utilità. Perché sull'effettiva utilità? Perché innanzitutto vedremo i risultati tra qualche anno, non sappiamo e non possiamo fare una statistica consolidata se non nel medio-lungo termine, per capire se effettivamente questo tipo di provvedimenti riduce l'impatto del tabagismo, la quota di fumatori. Una quota di fumatori, peraltro, che negli ultimi anni è già scesa perché è un dato fisiologico, è un trend a livello mondiale, internazionale, si fuma sempre meno per mille motivi di carattere sociale, di carattere regolatorio e così via. Lo vedremo quindi in anche futuro. Anche forse economico, magari, cercare di eliminare le spese, no? Probabilmente in una fase storica, anche recente, sicuramente ha avuto un impatto anche questo, anche in Italia, dove i consumi si sono contratti negli ultimi 3-4 anni in maniera assolutamente notevole, anche come effetto della crisi economica, non c'è dubbio. Il punto fondamentale però che per noi è importante è capire sempre che tipo di lavoro e di mestiere fa il regolatore pubblico, cioè a noi interessa che sia chiara e incontrovertibile la linea di demarcazione tra la regolamentazione, buona o cattiva, vedremo, ripeto, aspetteremo, sì, i risultati e poi faremo una valutazione. E quella che possiamo chiamare l'ingegneria sociale, che Giannino spesso chiama incorrettamente lo stato etico. Cioè alle porte di casa, i nostri vicini europei, mi riferisco ai francesi, agli irlandesi e così via, si sono spinti addirittura oltre, promuovendo questa idea del cosiddetto pacchetto neutro o generico, addirittura il dibattito corrente in Francia sull'espropriazione di quei marchi di sigarette che possono evocare un determinato stile di vita, sì, la virilità, la femminilità e così via. Ecco, rispetto a questi temi noi abbiamo un'idea molto chiara, c'è una linea rossa, deve essere assolutamente chiara quale sia, tra la regolamentazione legittima, lecita, ripeto, e poi la buona regolamentazione si vedrà sui risultati effettivi, e l'ingegneria sociale, che invece è qualcosa che spinge sempre più verso il proibizionismo, quindi a quel punto bisognerebbe far cadere qualsiasi tipo di ipocrisia e proibirle semplicemente. Tra l'altro aggiungo questo, guarda Oscar, arriva un messaggio di un tabaccaio che dice: per ora i clienti, io non so se è vero ma mi fido, si divertono a scegliere le immagini che più gli piacciono. Allora io do un po' di anche cose. Consiglio di provare il sigaro Mastro Tornabuoni. Chi volesse, legga il libro Oscar, Neuromarketing di Martin Lindstrom, in cui con ricerche alla mano e sondaggi e ricerche ex ante ed ex post di esperimenti di effetti di immagini shock si dimostra Almeno secondo queste ricerche, ripeto, Neuromarketing, il libro, l'autore Martin Listrom, si dimostra l'effetto neutro, anzi con punte di incoraggiamento al consumo. Quindi, primo. Secondo, a proposito dell'ingegneria sociale dello Stato, lo Stato è un ipocrita sui tabacchi nel nostro paese. Un ipocrita, proprio, se lo sostengo, numeri alla mano, lo Stato ricava nel 2016 dal tabacco 14 miliardi di euro nel nostro paese, di cui 11 miliardi di sole accise. L'ultimo aumento dei 20 centesimi di sigarette è di aprile, il prossimo già previsto per ottobre. Quindi, da una parte lo Stato ci impone queste cose come dice, ma io mi occupo della vostra salute, dall'altro ipocritamente in realtà aumenta sempre il suo gettito su questo. Siamo sempre sull'ipocrisia, come sul gioco legale, cioè fa le tasse, lo stesso dice, fa male, attenta che fa male, attenzione, però chi giustamente sia dal punto di vista economico che etico dice no, però Giannino, lo Stato deve procurarsi le risorse che costa in più come aggravio allo Stato la sanità, cioè doversi occupare delle patologie da fumo, giustissimo. Stima delle patologie da fumo e quanto costa la sanità nel nostro paese, stima condivisa dall'Unione Europea, dove la stima a livello europeo è di 23 miliardi e mezzo, 4 miliardi di euro ci costano l'anno, tantissimo le patologie da fumo nella sanità italiana, lo Stato ne incassa 14 però, quindi anche questa giustificazione come vedete non regge dal punto di vista economico e così via. Quindi attenzione, il regolatore da una parte impone queste cose, dall'altra il suo comportamento reale va in direzione opposta. Quindi il motivo per il quale io respingo in radice lo stato etico che pretende di sapere se è la scritta o l'immagine shock che disincentiva meglio, se davvero fosse coerente con quello che dice, dovrebbe avere una strategia che non ha invece la parte pesante della posizione dello Stato, cioè quella in cui lui incassa e incentiva. Incentiva e incassa. Mi metto anche nei panni degli operatori frontali al consumatore, cioè dei poveri tabaccai, che guardate con un esercizio medio piccolo non stanno più in piedi. Allora, bisogna che ci mettiamo d'accordo nel nostro paese. Vogliamo uno Stato che dica smettete di fumare a tutti i costi? Io non sono d'accordo, ma capisco che ci sia chi la pensa così, però allora bisogna smetterla di farci soldi sopra e bisogna dire la minoranza che fuma si becca lei direttamente i costi della sanità. Ma altrimenti far pagare a tutti molto di più quello che viene spacciato come etico e lo Stato incassa mi sembra una contraddizione. Allora Anzalone, voi criticate il fatto che sulle sigarette c'è questo atteggiamento, non so, quello che ha scritto ieri Massimiliano Parente, invece sull'alcol no, sui prodotti che provocano il diabete se consumati in maniera esagerata no, cioè vedete uno squilibrio oppure lo accettate per i prodotti da fumo? No, le ripeto, lo accettiamo purché si tratti di un percorso di buona regolamentazione, sostenibile, che abbia un impatto non eccessivo sulla capacità degli operatori di stare sul mercato, sulla libertà di scelta dei consumatori, in un contesto nel quale però i consumatori stessi devono essere, come sta accadendo, ripeto, da 20 anni a questa parte, pienamente informati del rischio, del danno e così via. È chiaro che questa ipocrisia di fondo ci preoccupa nella misura in cui si risconde, diciamo, il percorso regolatorio e normativo non è continuo, non è costante, ma vive per salti improvvisi sui quali noi esprimiamo dei dubbi sull'effettiva efficacia. A quello che diceva un attimo fa Giannino, io vorrei aggiungere un'ulteriore considerazione da livello nazionale a quello europeo. La direttiva europea, che è la madre, diciamo, delle leggi poi nazionali, tra cui quella italiana recepita immediatamente, che introduce tra le altre cose le immagini shock, ma vieta anche la vendita dei pacchetti da 10 sigarette, oppure bandisce del tutto le sigarette con aromi, il mentolo per esempio, è figlia di una contraddizione, diciamo, non mi spingo a dire di un'ulteriore ipocrisia, ma sicuramente di una contraddizione, cioè prende il via dalla volontà dell'Unione Europea di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni in tutta l'Unione e non dal principio di tutela della salute, perché il principio di tutela della salute non è inserito nei trattati europei, rimane nella sovranità e nella potestà degli stati nazionali. In un certo clima politico, diciamo così, alcuni anni fa, l'Unione Europea, la Commissione, prende l'iniziativa di questa direttiva obiettivamente molto restrittiva, la fa approvare al Parlamento Europeo e poi demanda agli Stati di implementarla. Risultato di tutto questo, per non andare nel tecnico giuridico, l'obiettivo dell'Unione Europea di armonizzare il mercato sta portando all'effetto di una totale disarmonizzazione in termini di prezzi delle sigarette in Europa, di regolamentazione, di avvertenze sanitarie, eccetera, eccetera, con l'effetto principale che oggi in Europa abbiamo un mercato interno, l'unico vero armonizzato è il mercato del contrabbando, che ha punti d'ingresso, punti di sbistamento e punti di vendita. Allora, noi intanto la ringraziamo, Gianluca Ansalone, direttore relazioni esterne British American Tobacco, e credo che un altro punto di vista sicuramente diverso rispetto a questo, non so se dire antitetico, ce lo può dare il dottor Biagio Tinghino, che è presidente della Società Italiana di Tabaccologia. Buongiorno, dottor Tinghino. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, rispetto a quello che ha ascoltato, oppure vogliamo, se vogliamo prendere rispetto al tema iniziale, cioè è giusto proporre questi pacchetti di sigarette che sono così scioccanti, almeno nell'offerta, anche se abbiamo visto che poi questo tabaccaio ci dice che la gente si diverte quasi a scegliere l'immagine più terribilmente più scioccante. Ma intanto faccio una breve premessa: noi siamo una società scientifica, quindi non abbiamo una idea moralistica dello Stato, no? Personalmente io sono per la libertà di scelta delle persone e per la libera informazione, ognuno deve essere libero, nessuno deve essere costretto a smettere di fumare, bere alcol o robe del genere. Quindi quello che dico ha a che fare solo con i dati scientifici. Bisogna distinguere ovviamente se è giusto o se è efficace. Sì. Però il mio punto di vista si articola sostanzialmente in tre cose. Libertà di scelta. In realtà i fumatori non sono liberi di scegliere perché la nicotina provoca dipendenza. E un ragazzino che inizia a fumare a 14 anni, le multinazionali lo sanno bene perché i loro consulenti lo hanno detto e lo hanno anche esplicitato, un ragazzino che inizia a 14 anni sarà un cliente per tutta la vita, perché pur volendo, poiché la nicotina provoca dipendenza, difficilmente riuscirà a smettere. I dati delle meta-analisi ci dicono che su 100 fumatori che vorrebbero smettere ci riescono solo uno o due in un anno, e questa non è libertà di scelta. Fatemi voi un esempio di un altro prodotto che incatena il cliente al produttore in questo modo. Secondo punto è: il fumo di tabacco ha dei costi, 6-7 miliardi addirittura secondo stime più ampie di costi sanitari, quindi non è solo produttività. E il terzo punto è che lo Stato, più che prendere in considerazione un'idea moralistica, dovrebbe rappresentare il pensiero dei cittadini. E però i cittadini, nel 70% dei casi, c'è stata un'indagine DOCSA recente dell'Istituto Superiore di Sanità, vogliono le immagini sui pacchetti. Mi sembra che si stia riproponendo quel dibattito che le multinazionali accesero quando entrò in vigore la legge Sirchia, rappresentando quasi i cittadini divisi al 50% tra chi voleva la proibizione nei luoghi pubblici e chi no. I fatti furono diversi. Sì. I cittadini italiani in realtà hanno voluto e hanno aderito a questa legge perché il loro punto di vista. Resta da capire però questo. Perché solo sul fumo? Ma come fai? Scusi, il fatto che hanno aderito i cittadini italiani, da che cosa lo desumiamo? C'è stata un'indagine DOCSA commissionata dall'Istituto Superiore di Sanità. No, capito. Il 70% vogliono le immagini sui pacchetti. Scusi, le faccio una domanda tecnica, perché lei ha fatto bene a dire le sue credenziali sono queste e io mi inchino di fronte. Nella stessa legge che mette, siccome bisogna trovare lo spazio sul pacchetto per l'immagine shock, questa legge, non so quanti lo sappiano, consente di non pubblicare più sui pacchetti i livelli contenuti di catrame, nicotina e monossido di carbonio. Poiché c'è stato chi in aula ha detto: ma è una cazzata, se squipedale fa pugni, se leviamo l'informazione su queste sostanze contenute nelle sigarette, come possiamo spacciare per un passo avanti per l'informazione dei rischi? E la risposta è stata che sono informazioni fuorvianti quelle sui livelli di catrame, nicotina e monossido di carbonio, perché i consumatori tenderebbero comunque a credere, scegliendo sigarette con meno contenuti, di dire: mi faccio meno male e continuo. Allora posso dire che considero ipocrita questa scelta, o secondo me sbaglio, perché di sua opinione ovviamente io tengo il massimo conto. Ci sono degli studi che dicono che in realtà il fumatore, tutti i fumatori tendono ad autoregolare i livelli di nicotina dal sangue, quindi se io fornisco una sigaretta fra virgolette light, se io ne fornisco una più forte, in realtà il fumatore, poiché è dipendente, tende ad autosomministrarsi la quantità di farmaco e di droga a cui lui è abituato, qualunque sia la forma di somministrazione. Quindi, peraltro bisogna anche dire una cosa. E allora non bisogna informarlo però, perché se il presupposto è che è incapace di intendere di volere perché è dipendente, lei capisce che bisogna piantarla di dire che lo facciamo per informazione, bisognerebbe sottoporli a un trattamento coatto, perché io a sentirmi dire che allora sono incapace di intendere di volere perché sono un drogato, Allora, se sono un drogato, piantiamola di dire che sono distolto anche dall'immagine. Perché se l'approccio è questo, chiedo, logicamente. L'argomento è questo. L'informazione deve essere anche efficace. Il problema non è solo togliere o aggiungere l'informazione. Il problema è che l'informazione sia efficace. Noi non possiamo immaginare che mentre un ragazzino decide di fumare ancora prima di conoscere il fumo, sulla base di una falsa immagine del prodotto, di una falsa informazione, di false aspettative, dall'altra parte noi reagiamo semplicemente con asettici articoli scientifici. No, l'informazione certo. deve essere no, efficace certo. e anche una comunicazione emozionale deve essere efficace. Certo. È parte di una comunicazione efficace. Non possiamo immaginare che da una parte ci sia la pubblicità o ci sia un immaginario che si è costruito nei decenni, e non dimentichiamo che le multinazionali negli anni 70 e 80 promuovevano certo. l'informazione tra i ragazzi, e dall'altra parte noi rispondiamo con gli articoli scientifici. Allora, informazione attraverso il pacchetto è comunque informazione, non è una costruzione, e arriva però di più, informazione e arriva che tocca di più. La pancia, che tocca certo. la pancia. Però, nessuno... dottor Tinghino, perché per l'alcol non si dovrebbe fare la stessa cosa, o per altri prodotti che se magari se consumati, adesso non voglio fare il paragone tra i vari prodotti e tra una sigaretta e una merendina che è consumata certo. con... Allora, io credo che non si possa mai fare un ragionamento tutto nulla, anche perché lei sa benissimo che le guerre sono fatte di battaglie, la salute è fatta di tanti aspetti. Sicuramente lo Stato deve fare una riflessione. Ora io dico, quando noi abbiamo un'aliquota IVA differenziata nel nostro paese, se io voglio comprare una macchina fotografica, la compro con un'IVA credo al 22%, se voglio comprare la frutta al 4%, in realtà lo Stato sta già facendo una scelta. Allora io dico, perché questo tipo di scelte non possono essere fatte anche per favorire la salute? Ma per carità, ma prende dal tabacco 3-4 volte tanto quali sono i costi stimati delle patologie per il sistema sanitario. Quanto deve prendere di più? Anche lì, mi perdoni, i numeri danno torto a chi dice, perché io sono favorevolissimo, ci mancherebbe che non bisogna occuparsi dell'esternalità negativa traslata come costo agli altri delle patologie per chi decide di fumare o di bere e di essere dipendente da altre cose. Sì, sono d'accordissimo, ma lo Stato in questo caso si prende già più di 3 volte tanto. Quindi, non lo so, io temo che ci sia qualche cosa da chiarire, però naturalmente può essere un'opinione un po' troppo interessata, biased dal fatto che fumo toscano. Esatto. No, ma lo dichiaro. No. Intanto, dottor Tinghino, noi la ringraziamo. Biagio Tinghino, presidente della Società Italiana di Tabaccologia, il tema è aperto e lanciato, poi ognuno ovviamente... Sì, sicuramente la maggiore consapevolezza, anche e soprattutto d'accordo. Per i ragazzini, bisognerebbe insegnare nelle scuole... Mi levi il catrame e le sostanze nocive dal pacchetto e ci mette la foto. Ma forse l'idea è, ma chi è che va a leggere il catrame scritto no, in piccolino? No, l'idea è che c'è chi lo va a leggere, bisogna impedire che si autoregoli. Beh, ma insomma, dai... Meno mi convince. Io poi ho massima stima di chi dice no, fidati. Istintivamente io diffido. Tu diffidi istintivamente, Oscar. Ma mi sembra più efficace che io possa immaginare di pensare che scelgo quelle con meno catrame e meno insomma. Allora, noi qui ci dobbiamo fermare. Vogliamo ringraziare Lorenzo Nespoli e Elisabetta Fusconi che ci hanno sopportato in redazione per tutto l'anno. Bravissimo. Peter Vescapè in regia pure ci ha sopportato tutto l'anno. Assolutamente. Anche un po' Alessandro Longoni all'inizio dell'anno è stato con noi, quindi adesso è su un altro programma, ci ha sopportato anche lui tutto l'anno. E basta, poi bisogna che c'è ascoltatori. Vabbè, dai, ascoltatori senza ascoltatori, eccetera, eccetera. Voi siete cari ascoltatori, sale, vogliate molto bene e date ancora più supporto a Alessandro Mila. Senza di me da settembre, ma sappiate che io voglio bene a tutti, perché senza voi non esisto. Viva Alessandro Mila e viva voi tutti, ascoltatori. Grazie, ci sentiamo il 5 settembre. A tutti, ciao. Oscar Giannino ogni mattino si sdegnerà, sbraiterà Alessandro Milan, anche a lui gli giran, ma lo gestirà con la pubblicità. Oscar Giannino, Alessandro Mila,